diretta dalla Silicon Valley di Noartri, va ora in onda Omega Stalva. You're gonna have it if you don't go waste your time. You're gonna get it for a dollar or a dime. Hey, I could find a better one than you. Tonight I'll only play the fool for you. You're gonna have it if you don't start to think it twice. You're gonna get it if you're taking my advice. Hey, I've got a lot of better things to do. But still I've got some time to waste. Podcast Alfa numero 1, la puntata numero 1, la seconda puntata dopo la 0. Oh ragazzi, la numero 0 secondo me ha spaccato di brutto. La numero 2, cioè la 0, la 1, quindi la numero 2. Quindi la 0 ha comunque spaccato di brutto e la 1 secondo me spaccherà di brutto. Ti, vedo, ti vedo bello carico, eh. Sì, bello, bello, qualcuno si, cioè lo stiamo già spaccando. Ragazzi, mi sono già perso. No, bene. Non ti preoccupare, è normale. Dai, allora cominciamo a parlare di qualcosa. Certo, Opencast in studio, Loris... Grazie. Coso. Coso, grazie. E io. E tu. Ah. Così vi ricordate sicuramente di noi. Il trio. Esatto, Coso, Loris e io. Coso, Loris e io. Bene, allora Coso inizia. Vai, inizia, inizia pure Coso. Iniziamo... Con Coso vuoi cominciare? Iniziamo fortissimo, veramente. Panda a bordo. Cioè, praticamente hai una macchina grande dove metti una panda. No, non avete. Praticamente hai... Ma no, cosa hai capito? Tipo bebè a bordo e c'è panda a bordo. Panda lui si porterà in giro un animale. Ah, ti porti in giro? Via d'estinzione. Panda a bordo. No. Mi è arrivata una notizia. Anza. Non consuma bambù. Non consuma bambù. Consuma al massimo 10 watt. Ah, ok. Però doppia uscita di HDMI che permette di riprodurre filmati in full HD. Una signora schedina. Ma scusa, quindi è l'arma quello che mettono anche sui telefoni di ultima generazione? Quello che oramai è quasi ovunque. Il Cortex ha qualcosa? Cortex A9. È un signor processore, mica pizzi e fichi. A9 di è cosa? Il futuro. A9 è il suo nome. Sì. Tu come ti chiami? Io. Ma non ho 9. Scusa, è la 9 Cortex tu? Reggio Calabria. Ah, ecco, ho capito. È chiaro, no? Cortex è Reggio Calabria. Processore sì. Che sì, sono vent'anni che ci stanno lavorando. Andare, giù, e non lo giù. Finiscono mai. Lo finiscono, è finito. Questa è una bomba. Questo va di brutto. Questo... Scambia formazione 1 GHz. Ho già trovato cosa farmi regalare da Natale. Da Babbo Natale. Da Natale. Da Natale scorso già lo sapevo, anche se non era uscita. Esatto. Se io vuole regalarmela, io sono pronto. Se io vuole regalarmela, devo chiedere anche a lui. A chi? A Coso? Di lui prima. Al tuo io devo chiedere. Comunque ragazzi, stanno già nascendo migliaia di progetti. Hanno già installato Ubuntu, stanno installando Gentoo. Beh, c'è qualche folle che la vuole usare per craccare le reti. Io sono contrario. Ah. Questa è una posizione ufficiale del presidente del GL. Sì, sì, sì. Ah, perché ecco. Quando lo volevo fare io tutti, no, allora sono contrario io adesso. Giusto, infatti. Tra l'altro vorrei aprire una parentesi che non c'entra un cazzo. Ah, a proposito del presidente del GL Como. Sì, mi dica. C'è in giro su internet una foto. Una foto? Una foto, io ho visto la foto finora. Devo ancora vedere il filmato da cui è presa questa foto. Ah. Dove si vede il presidentissimo del GL Como e il vicepresidentissimo del GL Como. In una foto che io oserei dire imbarazzante. La so. Il presidente sta dietro a tutti. E non proprio. No, il presidente è davanti allora. No, però è dietro a tutti quanti. No, no, io non volevo arrivare a tanto. No, neanch'io. A tanta però, volevo come, arrivare come non essere trovato con lì. Tanta banalità, via, via. No, ma voi state parlando sicuramente della mia bellissima intervista alla Prologo di Binago. Ah, che il Prologo di Binago è un amico. Noi lo salutiamo. Sì, sì. Salutiamo benissimo gli amici della Prologo di Binago e soprattutto gli alpini di Binago. Quindi amici che ci ascoltate da tutta Italia, voi che sapete benissimo dove sta Binago, ma soprattutto gli alpini. Soprattutto gli alpini, li salutiamo calorosamente. Un saluto a Gianni che ci ha offerto il vino. Ecco, adesso ho capito tante cose di quella foto. Bene, bene, bene. Ma andiamo avanti. Ma proseguiamo, proseguiamo. Di che cosa vogliamo parlare? Vediamo. Io volevo anche ricordare del fatto che tutto quello di cui stiamo parlando sarà elencato sul sito www.gl-como.it, dove potete trovare anche la puntata unica scorsa dell'Open Cast Alpha. Per esempio ci sarà anche il sito dove trovare le notizie della Panda Board, che è pandaboard.org. Per esempio, Panda Board. Vedo che avete capito, fantastico. Come che roba brutta, ci ho pensato anni e anni. Anni. Allora, mi butto io su un argomento, visto che vai, buttati a pisci. Vi vedo agili e anche un po' tranquilli. Vorrei partare come argomento, è un nuovo verbo, esatto, che ho appena coniato. Cioè, insieme tra parlare e partire con un argomento è partare. Quindi vorrei appartare della realtà aumentée. Vorrei parlarvi di augmented reality oppure realtà aumentata. Come ma che ha mangiato italiano. Questo oggi? Non so, a cena non è voluto venire con noi, non so che cosa. Infatti ho mangiato uno gnocco leggero, solo che poi ho messo degli occhiali e mi si è aumentata la realtà e ci ho visto dentro anche dello Zola. È stato carino, però in realtà poi sapeva solo di burro. Beh, insomma, che cos'è la realtà aumentata? Perché lo Zola era virtuale. Lo Zola era virtuale, il burro era reale. Ma questo è sempre collegato alla realtà aumentata. Sì, lo sappiamo. Perché questa realtà aumentata di che cosa si occupa? Beh, si occupa di sovrapporre dei livelli virtuali alla realtà di tutti i giorni. E che cavolo vuol dire? Vuol dire che noi, attraverso alcuni dispositivi, come per esempio un telefono di ultima generazione con sistema operativo iOS. Chi? iOS oppure Android. Il 4.1. Non lo so. Dopo ti dico. Dopo? Ah, mi devi dire qualcosa sul 4.1. Sì, sì. Ma non siamo dispersivi come al solito. Soprattutto sui dispositivi Android, quindi dispositivi con un'antenna GPS, con un accelerometro, è possibile appunto di godere di servizi di realtà aumentata. Noi con la nostra fotocamera possiamo inquadrare un punto della città e ci verranno fornite attraverso la rete dati delle informazioni aggiuntive. Per esempio quella è la pizzeria di Peppo Scugnizzo e ci verrà fuori il numero di telefono, casomai non volessimo fare 100 metri per andare a prenotare una pizza ma fare una telefonata. Ma tu ce l'hai già installato? Perché vedo che ce l'hai già e funziona. Per esempio, guarda, Gianna la gnoccona. Guarda cosa viene fuori scritto. Sì, lì all'angolo. Lì all'angolo. Cioè, è talmente aumentata che non si vede neanche Gianna. Si è vede proprio tutto virtuale. La realtà aumentata mia c'ha la quinta, cioè, secondo me. Ecco. Ma come minimo. È aumentata tanto. Insomma, quindi a questa esperienza reale di tutti i giorni vengono sovrapposti dei layer, dei livelli. Questi livelli, questi elementi che aumentano la nostra realtà possono essere anche devono anche essere con parole tue. Cioè, insomma, volevo parlarvi di un navigatore satellitare, di un software di navigazione che fa uso di questa tecnologia. Secondo me è un'applicazione molto interessante. Giusto da pochi giorni gli è stato assegnato anche il premio per il miglior software dalla European Satellite Navigation Competition. Posso fare una domanda? Yes. Ma questo software di GPS, cioè tu sei in giro per strada e ti segnala sullo schermo Gianna la gnoccona. Sì, ora passi. Vi spiego esattamente come c'ha funziona. C'ha la quinta. Allora, innanzitutto si tratta di Vicitude Drive. Chi? Vicitude. Vicitudine. Guidatore della vicitudine, perché Vicky è l'amica sua. L'amica di Gianna. Deve guidare la vicitudine. Allora, Vicitude Drive, questo sistema di navigazione che usufruisce della augmented reality, dell'appunto realtà aumentata, come funziona? Beh, allora, tramite un cellulare con Android, la sua fotocamera inquadra la strada e alla strada viene sovrapposto il percorso che noi dobbiamo intraprendere. E tu guardi il cellulare? Io guardo il cellulare. Sarebbe meglio non guardarlo sempre. Gli butto un occhio. Però qual è la differenza con un navigatore normale? Che il navigatore normale, se gli butto un occhio e mi distraggo nel momento sbagliato, vedo la rotonda segnalata e sento pam. Perché sono andato in mezzo alla rotonda. Sì, potrebbe anche capitare. Perché era fuori di qualche metro. Oppure che ne so. Il GPS sfora. Sì. Il GPS sfora, infatti questo sistema tra le altre cose utilizza il sistema Galileo, o meglio alcuni, è così che è alcuni nato. Dei satelliti della flotta Galileo, che ancora non è al completo, ci sono all'incirca 6 satelliti in orbita, se non erro. Sei. Sì, 6 satelliti. Sono un po' pochi. No, perché sono geostazionari. Stazionari, stanno lì e ti dicono esattamente in che posizione sono. Eh sì, funge. È una precisione maggiore di quella del GPS. Ricordiamo che molti GPS... di più, ma si muovono. Sì, il grosso problema è quello. Ricordiamo che il sistema GPS, tra l'altro, è in mano agli Stati Uniti, quindi un giorno o l'altro potrebbero anche dire: beh, io ve lo spengo perché c'ho da fare, e non rimaniamo tutti così. Tipo, metti che beccano un virus. Sai che però, bello scherzone. Sai che bello scherzone. Sembrate scemi, ma siete imparati proprio. Siamo imparati di brutto, fratello. È così che è nato Nino, il figlio di Gianna. Ah, c'è stato un piccolo problema. Scusa, di qualche ma Gianna metro. Non è Nino? No. Vabbè. Io dubito, stasera arriveremo denunciati per violazione del copyright. Mi fate finire questa notizia su Wicked Drive? Sì, vai che stai parlando come un libro stampato. Ok, quindi prego, questa... prego. Quindi ha vinto questo premio molto importante, vi consiglio di provarlo se avete la possibilità. Vi segnalo il sito del produttore, che è www.mobilize.com. Ve lo, comunque, vi faccio lo spelling, mobilize.com. E comunque metteremo il link sul sito GL Como nella pagina dedicata. Possiamo evitare questo? Cosa? Cioè questo sì, ma tu non dirlo. Ah, ok. Adesso passiamo la notizia a lui e io poi andrò avanti ancora un po' con l'augmented reality. Dobbiamo parlare di qualcosa. Io ti devo dire qualcosa di iOS 4.1. Ah, dimmi, visto che ne stavamo quasi parlando. Tu, uomo dall'iPhone facile. Ah, tu, uomo dalla forma iPhonica. Ah, mi si accusa. Tu, che settimana scorsa, anzi due settimane fa, eri in Australia. Sì. Quando è scattata l'ora solare. Sì. Mi ricordo che tu eri in Australia. E mi dovevi chiamare e non mi hai chiamato. E quando ti ho chiamato mi hai detto... non ha suonato la sveglia. E io lì a dirti: sei il solito ubriacone. No. Chissà che cosa avevi fatto tu e Gianna, l'australiana. No, diciamo le cose come stanno. Quando però sei tornato qui, io mi sono dovuto scusare con te, perché anche qui sei arrivato in ritardo. Sì. Perché quando l'iPhone è passato all'ora solare, sì, si è scoperto questo piccolo bug. Ah. Per cui le sveglie impostate... Avete sentito una botta? No, era la bottiglia del gin. Sono i popcorn che stanno andando nel mio cervello. Basta con scusa, l'altro. Scusa Davide, vai pure. Perché quando tu imposti una sveglia ripetitiva, per esempio tutti i giorni, sull'iPhone, con questo piccolo bug del sistema operativo iOS 4.1... iOS... lui continuerà a suonare con l'ora legale. E beh, questa è una notizia veramente interessante. Ragazzi, che famo però. Niente, io la mia sveglia si è aggiornata. Io lo regalo al mio capo, così smette di rompere. Allora, è un'idea. O facciamo una claxaction. Una claxaction. Oppure suoniamo, continuiamo a dormire. Io continuerei a dormire. Io voto la seconda. Ma io volevo suonare il claxon un po', facciamo la claxon. Claxon action. No, io continuerei a dormire, ma intanto che tu dormi, che io dormo, sì, che gli dorme, che voi dormite, che si dormono. Ah, bravo Fabietto, dirò a tua mamma che hai studiato oggi pomeriggio. Grazie. Anche coso dorme. Docenti. Io metterei su un pezzo musicale. Ma che pezzo metti? Il prossimo pezzo musicale, il primo pezzo musicale che abbiamo messo oggi come introduzione, bello, era bello, dei, bello, The Dots, Come On Baby. Questo pezzo è dei Loud Dog, Burn Down the Castle. Ragazzi, andate a vedere la copertina di questo CD, perché mi ricorda un cifro la Clara. Ma è quello con le due gnoccone? No. Ah. Quello lo mettiamo alla prossima puntata, quindi ragazzi, ascoltateci. I said maybe you will come over to this place. Then let me show you an effect of capitalism, fooling the people, eh? Turning downtown into prison. It's ruled by God with bad ambition, yeah. I said, we don't need your so-called elegance. You're well packed into cellophane. I don't give a damn about what you sell and spend, but no one needs boots made out of elephants. It's not intelligent, you go to hell and then you pay for ripping off your fellow man. I tell you, hey, this ain't the way to do it. We need the castle and the mall, go ahead and prove it. Hey, killing a bug will make it more polluted, but we're not stupid, we're gonna loot it. Hey, we will remove it. Castle is useless, cause no one's gonna use it, yeah. And when it goes up in flames, and here's what I came up with. You project the cell, so we need to stop it. And burn down the castle, yeah. Burn down the shopping mall. Let it burn, let it burn, let it burn. Burn. there, burn down the shopping mall. Beat up the guy who planned the building. Of the time, I'm not the kind of guy to want this. I don't like promoting violence, but now I make an exception, eh? And I go and call out for action, yeah. This time, eh? 'Cause I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, care, care anymore. Time I go shopping, eh? I take a Molotov cocktail when I go. And here's what I came up with. Your project is out, so we need to stop it, eh? Burn down the castle, yeah. Burn down the shopping mall. Let it burn, let it burn, let it burn. Burn down the castle, yeah. Burn down the shopping mall. Up the guy who planned to build it, yeah. Beat up the guy who planned to build it. Beat up the guy who planned to build Opencast, un podcast che scalda l'ambiente, direi. Sì. C'è anche del fumo, eh? Se possiamo scappare. No, beh, dai. Non è il caso. Godiamoci un po' questo falò. Stiamo godiamocelo, questo falò tecnologico, ragazzi. Sì, ok, il falò tecnologico. Ma siamo in una stanza completamente di plastica. Ecco, e quindi... È problematica come cosa. Allora niente, spengo. Ecco, spengo, grazie. Spengo. Ecco, grazie. Bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione, cari gentili signori. Adesso andremo avanti con la trasmissione e con le notizie. Abbiamo il servizio della regia? No, la regia non c'è il servizio? Abbiamo la rubrica ecocompatibile. Abbiamo la rubrichetta ecocompatibile. Va ora in onda la rubrichetta ecocompatibile. Ecocompatibile. È proprio perché così. Perché è ecocompatibile. Ah, super compatibile. Allora, circa il mese scorso Greenpeace ha fatto una delle sue ricerche molto interessanti su... Ha trovato le balene? No, quelle di solito sa già che ci sono, spera di trovarle ogni volta che va a cercarle, però qualcuno... Ha dei marker GPS. Ma non l'avevano già fatta gli anni scorsi questa ricerca? Potremmo fare un censimento delle balene, un censimento delle balene, mettiamo tutte un dispositivo. Te ragazzi, domani cosa facciamo? Partiamo per cercare le balene? Ma assolutamente sì, se trovo dei finanziatori. Bene, invece per quanto riguarda la questione Greenpeace, che cosa è uscito? Un rapporto che esce annualmente all'incirca su i produttori di elettronica di massa, su chi utilizza o meno energie rinnovabili, energie rinnovabili nel suo processo di produzione. E sono uscite delle interessanti scoperte. Sapevate? Sapevatelo. Lo sapevate? Chi è il produttore più pulito in questo momento? Mastro Lindo. Con un voto che si avvicina a 7,5. Su 4? Su 6. Su massimo di 10. Vabbè. Ok. Chi è il più pulito? Chi è il più pulito? È Nokia. Anche perché nessuno compra più cellulari e quindi giustamente la produzione è diminuita drasticamente. Sei cattivo. Sì, abbastanza. E beh ragazzi, insomma, l'obsolescenza, anche il software fa la sua parte nei telefoni. Bene, poi invece chi c'è al secondo posto? Beh, adesso non vi sto a fare tutta la ramanzina. Quanti molto sono? Molto interessante, anche Sony Ericsson si avvicina a un punteggio intorno al 7. Diciamo chi sono le pecore nere, forza, diciamo chi sono le pecore nere. Non ci crederete mai, non ci potete credere. Cioè voi lo vedete lì nel salotto di un sacco di persone. Dici, ma che bello. Ikea, ce l'ho. Sì, quasi, quasi. Ho detto no? Salotto. Sempre elettronica, sempre elettronica. Quel bello lì. Il divano. È bianco, ci metti divano. No. È nel il disco nel divano. Sì, beh, forse. Sì. Io ci metto. Ogni tanto io ho persi. Cucine, no, cioè, arriva gli amici, lo prendono e ci giocano. Ma cioè, prendono una parte i tuoi di lui. Amici una parte di lui ci giocano. Ah, sì? Eh sì. Ma tu che sì. Festini fai la sera? Non invitarmi la prossima. No, ragazzi, allora, è un dispositivo elettronico che è composto da più parti. Lo so. Un'unità centrale. Lo so, sì? È quella cosa che su internet hanno fatto un sondaggio per sapere se funzionava come doveva. Cosa stai parlando? Non è una blowjob machine, in realtà si tratta del Nintendo. Nello caso specifico io stavo pensando al Wii. Comunque Nintendo è la ultima in classifica con un voto che si avvicina più o meno al 2, quasi apparentemente. Cosa fanno? Solo energia nucleare. Usano energia nucleare per produrre. Se in Giappone, se le fanno in Giappone. Magra consolazione per Nintendo e a pari merito con Microsoft, quindi. Ok, ma scusa. Sì. Cosa produce Microsoft? Microsoft produce hardware, anche mouse, tastiera. Ovviamente non è che le produce direttamente. Ma le produce hardware. Già con dentro il virus? E poi non consideri le scatole dei prodotti di Microsoft. È vero, chissà come le fanno. Quasi tutte di plastica ormai. Rigida, petrolio. Quindi, niente ragazzi, questo è molto interessante. Se volete andare a approfondire, andate sul sito www.greenpeace.org/electronics e potrete vedere chi sta anche a metà classifica, altri grossi produttori come Philips, HP, Motorola, Panasonic, Sony, Dell. Nel caso ci fate sapere dove sono finite le balene? Sony Ericsson, no? Già che ci siamo. Toshiba. Sono finite? Saab. No, Saab non c'entra. Husqvarna. KTM, Honda. Adesso per par condicio le dovresti dire tutte. Sì. Eccetera. Veremo spiati. Ok. Bene. E allora invece volevo chiedere, Davide, mi stavi accennando prima a una notizia veramente interessante. Quella sulle balene? No, la blow. Di Android? Sì, di Android, ecco. Beh, ma ragazzi, voi forse non lo sapete, ma Android ha raggiunto il 44% del mercato americano. Mica pizze fichi. Questi qui vendono, questi vendono un casino. Il 44% del mercato americano. Non è poco. È un buon risultato? Sì, è un buon risultato se consideri che ha raddoppiato rispetto alle vendite di Apple col suo iPhone. Decido. Ha raddoppiato? Mica pizza e fichi. Ma sai perché? Io ho un'idea. Perché si sono svegliati in tempo. Invece? È vero, credo anch'io. Invece gli altri avevano l'orario sballato. Esatto, è il problema. No, principalmente perché il sistema operativo libero funziona. Permette di avere molti applicativi che girano. Se a uno piace installo questo, se a uno piace installo quell'altro. Ci sarà un programmino per cercare le balene comunque su Android. Sì, sono sicuro di sì. Lo troveremo. Ma poi soprattutto è svincolato soprattutto dall'operatore, dal gestore telefonico, per cui permette di utilizzarlo con molti gestori. Se poi consideriamo che tra un po' uscirà anche, io un po' mi vergogno a dirlo. Dillo. Windows Phone 7. Ah! Vabbè, ma ragazzi, è un sistema che offre moltissimi vantaggi come quelli di Android. Elencaceli. E in più ci saranno comunque molti produttori che lo utilizzeranno. Tra cui io no, per esempio. Sharp, Dell, HP, Optica. E soprattutto... Meno male che abbiamo il nostro addetto ai marchi. Toshiba. Non ci sarà nessun contratto esclusivo con gli operatori. Ci sarà quindi una grande varietà di prezzi e di virus. Finalmente avremo il virus sul telefono. Insomma, non si può stare col telefono. Ci mancava. Ma penso un po' uno se si deve tenere la sua rubrica tutta la vita. Deve arrivare un bel virus che cancella tutto. Infatti, io stavo pensando poi al Norton che ti saltava fuori mentre tu stavi facendo una telefonata, non lo so, erotica. Tu pensa. E ti dice: guarda che il tuo antivirus è scaduto. Stai attento perché dalla telefonata che stai facendo potresti prendere dei virus. Tu dici: io faccio sesso via telefono per evitare l'AIDS. Ecco. Cacchio. Ma che sono problemi. No, ma lui si preoccupa per il telefono. Potresti prendere un Trojan. Ma faranno anche probabilmente i profilattici per il vostro telefono. Perché no? Ci sono le cover in silicone, ma quelle sono un po' scomode. Ascolta, se mentre stai telefonando parte una bella schermata blu. E quello è un problema. L'utente che stai chiamando verrà terminato. Esatto, ha commesso un'operazione illecita e verrà terminato. Sarà un grosso problema. Comunque non vediamo l'ora di provarlo. Io sono curioso di vedere l'interfaccia che avrà. Vabbè, Windows 95. No, utilizzano. Parte di scherzo, sul telefono. Windows 95. Io ho visto qualche video dimostrativo, sembra abbastanza reattiva. È particolare, non imita. È a chiocciola, è a chiocciola. Imita, no, non imita gli altri produttori come, vabbè, parliamoci chiaro, iOS piuttosto che Android. Yes. Un sistema ad icone con delle schermate che poi richiamano l'icone. Qua invece mi sembra che sia tutto in modo fruibile ad elenco. Un elenco che è quasi infinito, però c'è una finestra in cui tu puoi andare in giù e continui ad andare in giù. La gente diventerà scema pure di andare in giù. Probabilmente puoi anche impaginare, ci sarà questa possibilità. Da vedere, da vedere. Sono curioso. Sono curioso. Ovviamente non puoi mettere l'interfaccia Windows sul telefono. Così bella. Più concorrenza c'è, comunque, ragazzi, meglio per noi. Nella vita, come nello sport, mettiti un'interfaccia Windows. Ah, anche nello sport? Sì. No. Potresti arrivare ultimo. Alle volte dici delle cose talmente sconnesse tra di loro che passaggio biblico, cioè tu ti usi tipo un Windows per arrivare ultimo, perché esatto. Gli ultimi saranno i primi. Esatto. Tre verticali, girare a destra. Sì. Addestrarsi. Ecco. E io dopo io chiuderei perché ormai mi sembra che abbiamo sviscerato gli argomenti di oggi. Veramente sviscerati, eh? Sì, sì, siamo proprio aperti in due. Sì. Vabbè, io posso dire l'ultima, solo l'ultima, giuro. Basta che non sia Z. Certo, lui si è preparato. Non dico più battute, giuro. Si è preparato? Chrome avanza. Ah. E mettiamolo in frigo. No. Chrome avanza, mettiamolo in frigo. No, al massimo nel freezer, perché comunque è deteriorabile. È il nuovo browser, quello di Google. È qualcosa di veramente leggero, veramente carino. Leggero e... No, vabbè, l'ho visto girare rispetto... Io ci apro, 20, ah, yeah. ci apro ah, tipo yeah. 26 tab e non me ne accorgo nemmeno. Me ne accorgo quando lo chiudo. Perché... Un quarto d'ora. Sì. Perché tu cerchi ancora quei siti un po' particolari che ti aprono da soli. Tab. No, davvero, ne aprono veramente un sacco, perché sei comodo col tab, soprattutto in Chrome che c'è quel più, che non c'è più. Anche in Firefox. Ctrl T. Sì, beh. Comunque, Ctrl N. Sì. Sì, anche Ctrl Shift N se non vuoi farti sgamare quando vai su quei siti. Ctrl Shift P invece in Firefox. In Firefox, benissimo. Vedi, siete informatissimi. Vedo che siamo preparati, insomma, parliamoci chiaro. Se ragazzi, sto diventando cieco. Cose, per cosa lo usi? Comunque, Chrome sta andando avanti, sta guadagnando... nell'ultimo mese ha guadagnato lo 0,5%. New browser from Google. Preoccupo. Ci abbiamo anche il traduttore. Yes, of course, instant translator from Google. Oh, wanagana. Comunque, siamo arrivati dall'8 all'8,5% di utilizzo di Chrome nell'ultimo mese. We are at 30% of Chrome utilization ragazzi, in the last month. La notizia importante è che Internet Explorer, la versione 6, sta sparendo dalla circolazione. Ragazzi, se insieme a una balena avete visto Internet Explorer 6, avvisateci. Possiamo avvisare Greenpeace se lo vengono a prendere. Sorry, my iPhone is breathing. Ha preso un virus. Che banda di Dio. Quindi avanza, però nel frattempo Firefox... Ah, ma siamo ancora in onda, io pensavo fossero già partiti i brani, insomma, i titoli di coda. No, nel frattempo Firefox ha cominciato il progetto Rainbow per permettere l'acquisizione video direttamente dal browser attraverso un'interfaccia JavaScript. Cos'è che fa? Praticamente permette di creare applicazioni web. Che attraverso JavaScript possono... Dovete vedere le mani di io. Possono catturare video dalla videocamera, cioè quello che adesso si fa con Flash, con la webcam e discorrendo. Cacchio, figata! Aggiungi al tuo slot PCI Express. Potrà farlo in qualche maniera attraverso Firefox che registrerà, c'è già la versione per macOS, se non processori. Sbaglio, il primo build. È un plugin. Bello. E registrare i formati molto, aperti. Mi piace molto questa cosa dei plugin. E trattarli come file da caricare sul ci sarà web, il tasto diciamo. YouTube, amelo. Più o meno, sì. Potrai registrare direttamente e caricarlo, ovvio. YouTube, your life. Il problema qui è il fatto che non esiste uno standard per questa applicazione, diciamo. Per cui l'interfaccia JavaScript è una cosa che funziona solo su Firefox, che registra in Ogteora al momento, anche in WebM prossimamente, però bisogna vedere cosa faranno gli altri produttori. Io non mi aspetto niente da Apple, ma magari Google. Volevo dire che quello che tiene il tempo ha per sbaglio toccato l'orologio e si è fermato. Va bene, io direi che a parte questi piccoli... Può essere che stiamo andando avanti da tre quarti d'ora. Vai tranquillo. Senza saperlo. Sono 32 minuti. Oh, benissimo. Direi che 32 minuti è una quantità di tempo sufficiente per questa puntata numero uno di Opencast, il podcast del GL Como, che tratta argomenti di tecnologia e altre cavolate, direi. Certo. Balene. Balene, soprattutto stasera, balene e direi telefonini. Direi che stasera è stato fondamentalmente balene e telefonini. C'è una balena sulla mia realtà aumentata. No, è mia zia. Scusa zia, no, puoi fare il tag automatico. In studio stasera con voi ci sono stati appunto Loris, Coso e io. Vi invitiamo fra un paio di settimane a ricollegarvi su www.gl-como.it per la puntata numero 2, quindi la terza puntata, che sarà? Come sarà? Bella. Figata. Bravo, cioè, hai dovuto anche pensarci. Certo. E certo. Cioè, è l'unico che ha un nome, però... Vabbè. È l'unico che ha un nome, ma non si capisce perché. Ma chissà. Ecco. E niente, quindi saluti. Un saluto da Coso. Loris. Bravo, vedo che ti ricordi come ti chiami. Sei sveglio stasera, Loris. Sì, molto. Certo, di brutto. Te hai mangiato pesante. Sì, in effetti. Va bene. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico di impegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it.